Buongiorno a tutti, siamo qui con Giovanni di Elementi Kairos. Buongiorno e benvenuto su Radio Città Fujiko. Ciao, buongiorno a tutti e a tutte, grazie. Allora, direi di partire un po' dal principio. Ti volevo chiedere che cos'è Elementi Kairos? Sì, allora Elementi Kairos è una piccola casa editrice che nasce dall'incontro di vari compagni e compagne all'interno della città di Roma, che militando in diversi spazi e facendo diversi percorsi anche nel mondo dell'informazione libera e della ricerca, poi decidono di iniziare questa avventura di edizioni, e Kairos comincia col suo primo libro, che sono le fiabe resistenti. Noi in pratica abbiamo tradotto le fiabe scritte dall'allora subcomandante insorgente Marcos, e poi l'abbiamo riportate in Italia con un libro che è il primo di una serie di fiabe che Kairos fa. Questo perché pensiamo, come casa editrice, che ora un intervento di tipo politico e culturale in Italia sicuramente si può fare, si può operare partendo anche dalle fiabe che raccontiamo, che leggiamo, dalle leggende in cui siamo immerse, quindi portando anche fiabe e leggende e miti che vengono da altri posti, riusciamo anche un po', diciamo, a descolonizzare sia le pratiche che il pensiero anche fin da piccoli. Quindi Kairos nasce come una casa editrice che inizia a fare fiabe. Poi dopo invece ci siamo dati anche alla saggistica, pubblicando un libro molto importante che è quello di Aguirre Rojas su movimenti antisistemici come le ZLN, che continua a essere uno dei nostri riferimenti sia politici che culturali per Kairos, e non meno importante poi il fumetto Prossima Fermata, con cui, sempre stando in un registro narrativo che vuole essere a portata di tutti e di tutti, accessibile, racconta la storia dell'uccisione di Renato Biagetti. Quello che Kairos fa nel presente poi è, oltre a fare libri, ne uscirà uno proprio questo mese, un romanzo, e speriamo di poterlo venire a presentare a Bologna, si chiama Figli delle Stelle, è organizzare anche dei cicli, degli incontri. Quest'anno il nostro ciclo si chiama Pass the Mic, in cui appunto favoriamo dei momenti di dialogo su dei macro temi. Abbiamo fatto di recente un incontro sulla Tunisia, per esempio. Faremo uno prossimo su inclusione e esclusione assieme alla comunità sudanese, autori, ricercatori e compagne della rete Donne e Figlie Migranti a Roma, proprio per avere dei momenti in cui ci si confronta su dei temi ampli, andando al di là del prodotto poi editoriale che fa una casa editrice. Quindi certo. Questo ho provato un po' a riassumere, certo, cosa cerchiamo di fare, ecco, nel nostro piccolo. E poi viaggiamo, ci spostiamo insomma per l'Italia, facciamo tanti festival, un sacco di iniziative, sempre anche all'interno e coordinandoci coi percorsi di cui facciamo parte, che sono dalla lotta per la casa, gli spazi sociali, insomma siamo parte di tutte queste biografie che si incrociano, e questo viene fuori un po' nell'avventura che è quella di una piccola casa editrice dal basso, autonoma, che non riceve nessun tipo di finanziamento, ma che si alimenta dei libri che vendiamo e delle iniziative che proviamo a fare. A proposito di viaggi, siete stati recentemente a Bologna per parlare, appunto, come hai già citato tu, di Prossima Fermata, il fumetto firmato da Zero Calcare e da R. Push, pubblicato in realtà nel 2016, ma che ora è in ristampa. Sì. Io so bene di che cosa parla, ma per tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, qual è appunto il tema che attraversa Prossima Fermata? Allora, Prossima Fermata è appunto sia un fumetto, il libro in realtà è molto bello perché in parte è un fumetto, in parte raccoglie e presenta lettere che i compagni e le compagne di Renato e della famiglia di Renato, oltre alle lettere stesse di sua madre Stefania e suo fratello Dario, scrivono. E quindi è un libro fumetto, diciamo. La vicenda di Renato in breve è quella di un omicidio politico che si consuma a Roma nel 2006. Renato va una serata reggae a ballare dancehall a uno stabilimento balneare che si chiama Buena Onda, sta a Focene, e viene aggredito fuori dalla dancehall una volta terminata la serata, insieme alla sua ragazza e un altro amico, colpevole, reo di essere riconosciuto come zecca. Viene accoltellato, coltellata che gli arriva al cuore gli è fatale, e questo omicidio, a parte sconvolgere la vita, insomma, delle persone che stavano intorno a Renato e del mondo di Renato, che era anche il mondo, insomma, dei compagni, delle compagne, della musica, in particolare dello spazio dell'ex cinodromo di Acrobax, viene anche a sconvolgere un po' la vita, secondo noi, politica di un paese dove gli omicidi fascisti sono derubricati a risse fra balordi o a episodi di violenza che avvengono tra opposti estremismi. E quella degli opposti estremismi è la retorica che poi la politica purtroppo fa sull'omicidio di Renato. L'allora sindaco Veltroni chiede direttamente alla famiglia di Renato, a Stefania, che cosa, quale piazza, quale strada volesse fosse intitolata a Renato per omaggiarlo, per ricordarne la figura. E Stefania allora, e lo continua a raccontare in ogni momento pubblico, dice a Veltroni che non vuole una strada intitolata a Renato, ma vuole la chiusura di Casa Pound. Questa cosa ovviamente viene negata, e ci viene risposto che, insomma, i compagni ne hanno tanti di posti, che ne devono avere anche loro. Quindi, insomma, queste due persone non vengono riconosciute dalla stampa, dalla narrazione che fanno stampa e politica, come fascisti, anche se, insomma, persone che hanno celtiche tatuate, gladiatori romani sul corpo, e che fanno comunque attività, che hanno fatto attività per organizzazioni paraneofasciste, noi li chiamiamo fascisti, però cioè, si è scelto, come spesso si fa, di fare una retorica degli opposti estremismi. E questo fumetto, a parte raccontare proprio la storia di Renato, la storia di un omicidio politico, di uno che poteva essere chiunque di noi, conta la storia anche di una città che ha un grossissimo problema con il fascismo, in cui le persone, e per questo viene rappresentata all'interno del fumetto come uno struzzo, hanno deciso, purtroppo tante persone hanno deciso di fare finta di niente rispetto al fatto che i fascisti ci accoltellano. Parla, insomma, di quello che loro stessi definiscono Banglatur, che è un'iniziazione per le reclute giovani di Forza Nuova, di Casa Pound, di Azione Frontale, di Milizia, insomma di tutte le sigle neofasciste romane, che è quella di portare a menare titolari di esercizi, di alimentari, soprattutto provenienti dal Bangladesh, insomma, come prova di entrata e di coraggio all'organizzazione. Racconta di come anche a queste situazioni, a questo tipo di violenza, che poi vediamo tuttora nelle strade di Roma, chi ci vive, si arriva molto gradualmente, sdoganando una serie di cose, e per esempio concedendo anche uno spazio ai fascisti nel 2008. Insomma, è un bel libro che ha vari tipi di registri, ma che comunque racconta un pezzo importante anche di snodo, secondo noi, nella narrazione sul fascismo in Italia, e secondo noi proprio lo snodo in cui si legittimano poi i fascisti a parlare, a esprimersi, a fare violenze come omicidio politico, non dimenticando che l'omicidio di Renato viene anche firmato politicamente dai camerati, perché al funerale di Renato viene accoltellato un altro compagno, Fabio Sciacca, che per fortuna non muore, e loro hanno proprio rivendicato questa azione. Il giorno dopo che è stato accoltellato Renato, sul muro davanti a casa di Stefania c'era la scritta Acrobax uno di meno, quindi insomma non ci volevano dei grandi elementi di analisi politica per stabilire che era un omicidio fascista. E la cosa bella di questo libro, se posso aggiungere, con i proventi anche di questo libro e del crowdfunding che abbiamo legato all'uscita dell'elemento, perché noi ogni volta che esce un libro leghiamo un crowdfunding in appoggio a un processo politico che riteniamo affine alla tematica che si tratta, ecco, con quei proventi lì, assieme a Stefania, al Comitato Madri per Roma Città Aperta, che sono tutte mamme romane e non solo, che hanno perso figlio, che erano vicini a ragazzi che sono morti, abbiamo inaugurato e lanciato un laboratorio che si farà nelle scuole di Roma, in cui attraverso una parte del libro, prossima fermata, qualche pagina di fumetto, parliamo della storia di Renato e della necessità di fare militanza antifascista tutti i giorni. Militanza antifascista intendiamo innanzitutto parlare di di noi e di come ci opponiamo alla violenza fascista, e sicuramente farlo nelle scuole, anche grazie a questo libro, avremo la possibilità di incontrare ancora più persone di quante Stefania e il Comitato delle Madri non abbia già incontrato questi anni, perché la morte di Renato, oltre ad aver prodotto un grande vuoto, ha prodotto invece anche, ha seminato dei frutti, ecco, che ci stiamo godendo anche ora. Uno è Renoise, un festival musicale che si organizza a inizio settembre a Roma proprio per ricordare Renato, la sua figura, la sua passione per la musica. Un'altra è appunto il Comitato delle Madri, che è riuscita ad andare a incontrare le madri di Desaparecidos in Argentina, è andata in Chiapas, è andata in Palestina, dove si è inaugurata una sala di registrazione che è intitolata a Renato, e tutte queste mamme sono riuscite a trasformare il dolore, insomma, per la perdita di un figlio, in un filo che le lega altre mamme in altre parte d'Italia, nel mondo. In Italia tutte queste madri, dalla mamma di Renato alla mamma di Dax, alla mamma di Carlo, alla mamma di Nicolò, insomma, si sono cominciate a vedere, a scrivere, a parlare. Quindi diciamo che prossima fermata è solo un pezzettino di tutta una serie di cose che Renato ci ha lasciato in dono, diciamo. Guarda, io ti volevo fare veramente tante domande, però mi hai tolto le parole di bocca, e penso che questo vostro grande progetto, che non si ferma appunto, come dici tu, solo al libro fumetto, ma c'è anche un documentario, il festival, il progetto nelle scuole di Roma, è tutto appunto un grande progetto per cercare di combattere la normalizzazione del fascismo, a cui ormai siamo assolutamente fin troppo, purtroppo, abituati. Assolutamente, no. Quello di cui parliamo anche nel romanzo, la quarta di copertina, che mi suggerisci, abbiamo messo le parole di Pasolini, perché quando parla di normalizzazione, di codificazione della realtà, stiamo parlando di quello. Cioè, poi però di una televisione, ora mi viene in mente al volo per rimanere nella contemporaneità, che invita il brasiliano di Tiburtina in TV a parlare, cioè che li soggettivizza, i fascisti che si dedicano a spaccio di cocaina, a gestione dello spaccio e violenza, li soggettivizza come figure politiche. Quindi noi facciamo il nostro, però diciamo che non è che ci viene data una grande mano dall'altra parte. Com'è possibile sostenere le vostre autoproduzioni? Allora, noi ogni elemento, ogni libro che pensiamo o che traduciamo, che stampiamo, lo facciamo, lo comunichiamo l'uscita, lo facciamo uscire con appunto un crowdfunding che va a sostenere un progetto politico che è affine al libro che esce. Ora uscirà un romanzo proprio fra pochi giorni, in realtà si chiama, ne approfitto, faccio un po' di pubblicità, certo, si chiama Figli delle Stelle. Assolutamente. È un romanzo di storia sociale meraviglioso, che parla di due fratelli che nascono negli anni 40 nell'Appennino dell'Italia centrale, in un paesino, e questi due fratelli, diciamo, uno fa la scelta di rimanere in provincia, l'altro invece si sposta, va a lavorare al nord, e quindi Genova, Torino, Milano, poi ritorna a Roma. Insomma, attraverso le storie di questi due fratelli, un capitolo per uno, attraversiamo la storia d'Italia e la storia del movimento anche dagli anni 40 fino al G8 di Genova. È molto figo il libro, peraltro, perché ogni capitolo c'è una canzone, un libro fatto un po' a playlist, ed è scritto da un compagno che racconta davvero la storia sua, familiare, ovviamente romanzandola e cercando di attraversare gli episodi più salienti della storia italiana del dopoguerra. E per esempio, per appoggiare le nostre autoproduzioni, seguite il crowdfunding. Noi abbiamo un sito, che è Elementi Kairos, un Facebook attraverso il quale comunichiamo, e i nostri libri, sia Prossima Fermata che Ora Figli delle Stelle, sono disponibili anche attraverso la piattaforma Distribuzioni dal Basso, con cui siamo orgogliosi di collaborare. Quindi anche attraverso OpenDDB potete appoggiare Kairos. C'è la possibilità ogni volta per i libri di pacchetti, perché per esempio con l'ultimo Prossima Fermata abbiamo fatto un poster, cioè il nuovo libro ha un centinaio di copertine serigrafate a mano, cioè cerchiamo anche di creare dei prodotti, ecco, che siano belli e fruibili e rimangono, proprio per andare in direzione opposta rispetto anche un modo di fare editoria, informazione, comunicazione politica, che poi produce tanto plusvalore sui social network, ma poi non ci lascia lascia niente in mano di bello, ecco, da conservare. Quindi penso che questo, ecco, insomma. Perfetto, grazie mille Giovanni veramente per la tua disponibilità e complimenti a tutti per il vostro lavoro. Grazie a voi tutti e tutte.